24 mattino. Il problema non è salvare il libro o le piccole librerie, il problema è salvare la lettura, e che è un discorso completamente diverso. La tecnologia va avanti e quindi non si può pensare di fermare i cambiamenti dei supporti dove i libri vengono pubblicati. Quindi questa cosa del 5% mi sembra una stupidaggine, anche perché non è solo Amazon che fa degli sconti. Insomma, una delle vostre opinioni sulla legge, questa legge approvata ieri definitivamente, che impone sconto massimo sui libri del 5%, teoricamente per favorire la lettura. Oh, prima di andare in questa seconda parte di 24 mattino, che si apre alle 7, 18 minuti e 55 secondi, alle pagine dei quotidiani e quindi alla rassegna stampa, c'è un aggiornamento importante. Avete sentito già qualcosa, ne avete sentito un accenno nell'aggiornamento sul traffico poco fa dai colleghi di Strada in Diretta. C'è stato un incidente sulla linea ad alta velocità all'altezza di Casal Pusterlengo, siamo in provincia di Lodi, un treno è deragliato, riferiscono le agenzie, alcune vetture si sarebbero ribaltate. Da quel che si sa al momento avrebbe perso la vita un macchinista e un altro risulterebbe disperso. Una trentina di persone sarebbero rimaste ferite, non in modo grave. E dalle 5.30, questa è quasi una notizia di servizio anche per i nostri ascoltatori che insomma sono là, che devono prendere un treno, la circolazione è sospesa sulla linea alta velocità Milano-Bologna appunto per lo svio del treno. Le cause dello svio sono in corso di accertamento. Ci sono ritardi fino a 60 minuti sulla linea convenzionale Milano-Piacenza, fa sapere Rete Ferroviaria Italiana. Oh, se avete notizie naturalmente potete dircelo, potete mandarcele anche via WhatsApp audio, oltre che su WhatsApp al 349-238-6666, oltre che naturalmente intervenire su tutti i temi che vi interessano e dei quali volete parlare. Vi daremo aggiornamenti costantemente anche con GR24 su questa vicenda e su questi fatti. Siamo come sempre anche in diretta Facebook e veniamo alle aperture dei quotidiani, che sono varie. Molti si concentrano ancora sul virus, sul coronavirus, la corsa per la cura, come la chiama il Corriere della Sera. Pechino che dice di aver trovato due farmaci efficaci, l'OMS che frena e dice non esiste ancora una terapia. In quella che il Messaggero chiama uno scontro sulla cura. La Stampa apre da una parte con Donald Trump, con l'assoluzione di Donald Trump da parte del Senato e la foto di Nancy Pelosi che strappa il discorso dietro di lui, e dall'altra centropagina con un retroscena su Bonafede che minaccia il governo: se rinviate mi dimetto. Sulla prescrizione ovviamente. Il virus avanza e il farmaco non c'è, il titolo del giorno. Ora per questo governo l'odio è un'emergenza, il titolo della Repubblica che intervista la ministra Lamorgese. Dopo le minacce a Scalfari, Repubblica, l'indifferenza dice non è tollerabile. Più soldi a chi prende gli immigrati è il titolo della Verità. Il Viminale abolisce i tagli di Salvini e ripristina il rimborso di 35 euro. Non è esattamente così, aumenta del 10%, in realtà sono tra i 2 e i 4 euro, dai 26 attuali. E mancia agli immigrati, titola il giornale. La Cina trova la cura, l'ONU non ci crede, il titolo di Libero. Sempre su Trump, volano gli strappi è il titolo del Manifesto ed è insomma ovviamente un gioco di parole con volano gli stracci. Bollette a 28 giorni, i RAS dei telefoni ci devono 1 miliardo è il titolo del Fatto Quotidiano. Trump vince facile è quello di Avvenire. Il Sole 24 Ore parla di bilancio europeo, gli investimenti green anche nei paesi con debito alto. Tutto questo è il tema della revisione del patto di stabilità. Ci arriveremo più avanti con il nostro direttore e direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, anche su questa storia che pubblica Micaela Cappellini a pagina 7 del Sole 24 Ore, sull'ortofrutta, con il Nord Africa che attacca l'export italiano. Iniziamo come sempre da qualche storia laterale e voglio iniziare da Libero a pagina 14. Siamo con Massimo Sanvito che firma il pezzo su questa nuova pratica antiassenteismo alla quale ha dato il via libera il Comune di Torino. Il racconto è questo. Drin drin. Il telefono squilla e quando dall'altra parte ti aspetti la solita chiamata del capo che ti chiede conto di quella pratica importantissima, ecco la frase che ti spiazza. Tutto a posto. Volevo solo sapere se eri in ufficio. No, non è uno scherzo. Tutto vero. A Torino, per controllare che i dipendenti comunali siano davvero alla scrivania a sgobbare per il bene comune, sono scattate le telefonate. Antiassenteismo. Per ora siamo ancora alla fase embrionale dell'esperimento che ha riguardato l'ufficio del personale, ma nel giro di qualche settimana le verifiche entreranno a pieno regime. Come funziona il sistema? Tutto è partito da una circolare firmata dal segretario generale del comune, inviata ai dirigenti dei diversi settori. Di fatto si ricorda una cosa ovvia, ovvero che è bene accertarsi che tutti gli impiegati siano presenti al lavoro. E per evitare ai funzionari di aprire le porte degli uffici a caccia di dipendenti, è scattata la telefonata. L'obiettivo è controllare ogni mese almeno 2000 persone. Mica male, dice però, se vai a prendere il caffè, se vai a fare pipì, non c'è problema. La chiamata resta fissa sul display e appena si rientra in ufficio basta darci un'occhiata, nel caso richiamare per fugare tutti i dubbi e confermare la propria presenza. C'è già un accenno di ribellione da parte dei sindacati, c'è già un accenno di ribellione. Così come pare che sia stata una ribellione sindacale, c'è del miracoloso, perché ieri era pieno di macchinisti della ferrovia che porta dalla stazione Termini a Centocelle e ritorno a Roma, era pieno di macchinisti malati con l'influenza oppure con il figlio malato, tutti guariti. Improvvisamente, ma pensa, il giorno dopo è bastato, miracolo all'Atac, scrive Lorenzo De Cicco sul Messaggero a pagina 32 in cronaca di Roma, dopo l'epidemia la guarigione di massa. È bastato che il Campidoglio rassicurasse i macchinisti della ferrovia Termini Centocelle, promettendo che non avrebbero perso un euro in busta paga, perché i conducenti che fino a 24 ore prima lamentavano improvvisi malanni loro dei figli, tanto da bloccare l'intera linea, si dichiarassero prontamente ristabiliti. E così la ferrovia ieri mattina ha riaperto con 2 assenti su 3 tornati in servizio come se nulla fosse. Dovrebbero cavarsela senza nemmeno una multa della partecipata, dato che naturalmente erano muniti di certificato medico o altri attestati come quello della donazione di sangue. Ma potrebbe non finire qui, perché su questa vicenda ha deciso di accendere un faro l'autority degli scioperi. Il garante vuole vederci chiaro e convocherà a stretto giro di posta sia l'ATAC sia i sindacati. L'obiettivo è fare luce su quello che perfino in Campidoglio ammettono essere stato una sorta di sciopero bianco. E poi, naturalmente, anche di questo parla il Messaggero, sarà da indagare sui medici che hanno fatto questi certificati se abbiano effettivamente accertato la malattia di queste persone o se abbiano fatto un certificato così per dargli una mano. Veniamo a Milano, ci spostiamo a Milano, dove nei dintorni di Milano soprattutto, ma non solo nella città, tante volte abbiamo raccontato della penetrazione della criminalità organizzata, che raggiunge livelli simili in alcuni casi a quelli che vediamo nel Mezzogiorno. Non solamente una penetrazione economica, ma una penetrazione fatta di intimidazioni, richiesta di denaro e richiesta di pizzo. E dunque il Corriere della Sera nelle pagine milanesi ci racconta la vicenda di un imprenditore. Fuori 150.000 euro in 15 giorni, gli chiedono, e gli danno fuoco all'azienda e a un camion. Le mani della stidda. Mamanna Ashtidda, non ha bisogno di traduzione, mi manda la stidda. L'imprenditore di origini siciliane che la mattina del 2 aprile 2019 scende da una smart di fronte agli uffici della sua società immobiliare vicina all'Esselunga di San Giuliano e si trova davanti un uomo con un cappello scuro in testa, jeans e felpa nera. Quell'uomo si scoprirà in seguito a molti precedenti e soprattutto d'origine di Gela. La parola stidda, la mafia dei ribelli che sopponeva a Cosa Nostra di Rina, ha dunque un peso quando viene pronunciata da qualcuno che minaccia in dialetto gelese. Quella mattina per l'imprenditore, racconta Gianni Santucci appunto nelle cronache milanesi del Corriere della Sera, è altrettanto comprensibile il resto della frase che il tizio gli sibila in faccia. Prepara 150.000 euro entro 15 giorni e tu sai a chi rivolgerti. L'estorsore a volto scoperto, segno che non si preoccupa di essere riconosciuto, sintomo che si muove nella sua testa, nella piena coscienza di un potere mafioso, ha la certezza che la sua vittima non parlerà. E d'altra parte, non c'è bisogno di accentuare la carica di intimidazione quella mattina, perché il carico di violenza che sta dietro la frase è stato già calato poco più di 2 settimane prima. Nella notte del 14 marzo gli uffici della società, proprio quella nella quale l'imprenditore entra la mattina del 2 aprile, sono andati a fuoco. La porta era stata spaccata, un incendio doloso, e alla fine l'imprenditore si è deciso a denunciare. Siamo invece in Alto Adige, una notizia che troviamo in un paio di giornali. Era pubblicata ieri, a dire il vero, dal quotidiano appunto Alto Adige. Qua siamo a pagina 17 invece del quotidiano nazionale, insomma della Nazione, Giorno e Resto del Carlino, ed è il racconto di quella che possiamo definire una bravata, insomma, anche se il termine non mi piace, una bravata molto pericolosa. Aggrappati al treno in corsa, il video shock dei ragazzini, questo è il racconto. Fa discutere in Alto Adige il video di una coppia di writer che, attaccata coi piedi al gancio di un vagone in transito sulla tratta Bolzano-Merano, traccia un graffito sulla parete esterna del mezzo. I ragazzi, probabilmente altoatesini, sono incappucciati, hanno i volti oscurati dalle maschere. Il filmato è una sorta di racconto del loro viaggio ad alta adrenalina e sconsideratezza. Per immortalare ogni istante, i giovani si servono di telecamera montata su un caschetto. Si parte dall'attesa del momento giusto per saltare sulla coda del treno senza essere visti da nessuno, si chiude con le mani ad armeggiare sulla telecamerina per l'opera di montaggio del clip. Durante il tragitto, appunto, attaccati dietro, c'è anche la foto naturalmente presa dal video, marchiano il treno con stencil e bomboletta, dall'esterno disegnano sul finestrino il marchio del gruppo, poi appena il mezzo inizia a rallentare, ecco che balzano giù e se ne vanno via, dopodiché montano il video, lo postano e il video è pieno di visualizzazioni, raggiunti in realtà dal quotidiano, da Rai su Tirol, dicono: siamo tutti prigionieri della società, invece di uscire ogni fine settimana oppure prendere droghe, cerchiamo il brivido con il train surfing. Così dall'Alto Adige, una pausa. Mattino. Ed eccoci qua, veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, che si compone di molti elementi, e direi che il primo, quello che forse farà discutere di più dal punto di vista politico nelle prossime ore, è quello che ha a che fare con l'immigrazione. Qua vi propongo due letture opposte della decisione presa ieri dal ministro Lamorgese, il quale ministro Lamorgese ha deciso di incrementare gli stanziamenti per l'accoglienza dei migranti. Cosa era successo? Era successo che con il taglio degli stanziamenti, che andavano i famosi 35 euro, ve li ricordate, erano passati con Salvini fra i 19 e i 26 euro al giorno per l'accoglienza dei migranti. 19 per i centri più grandi, 26 allo scendere della dimensione. E che cosa era successo a quel punto? Era successo che molti bandi per l'accoglienza erano andati deserti. Nessuno si era presentato perché ha detto: con quei soldi non riusciamo a fare un'accoglienza che funzioni, non riusciamo a fare integrazione. Dunque la ministra Lamorgese decide di intervenire. Le due letture diverse che vi do sono quella del Giornale, che titola con un mancia agli immigrati, il governo aumenta i fondi per l'accoglienza, e quella di Avvenire, che dice accoglienza invece segnale dal governo. I bandi andavano deserti, racconta Lodovica Buliana sul Giornale a pagina 7. Le cooperative non partecipavano più perché l'accoglienza a quel prezzo non può essere garantita. Con l'era Salvini, gestori dei centri che ospitano i migranti si erano visti tagliare il costo degli appalti, tanto da, così denunciavano, essere costretti a rinunciare alle gare per le condizioni economiche insostenibili. Da 34 euro a persona si era passati ad un range compreso tra i 19 e i 26 euro. Il rischio al quale ha dovuto ovviare il Viminale era di non riuscire più a garantire l'accoglienza per la mancanza di soggetti disposti a farlo a quel prezzo. Le associazioni commentano positivamente questa decisione, che appunto prevede un aumento del 10% della cifra in vigore prima del taglio di Salvini, di circa il 10%. Dovremmo essere intorno tra i 3,5 euro, i 4 euro, forse si sale un po' di più sulla base di necessità specifiche che ovviamente dovranno essere dimostrate, ancora in fase di lettura la circolare e di interpretazione. Questo è quello che vi riporto. Duro Salvini dice: dopo aver riaperto i porti, il governo riapre i portafogli degli italiani aumentando i soldi per chi accoglie richiedenti asilo. Racconta della riduzione che avevano fatto e poi dice: questo governo fa ripartire il business legato agli sbarchi, vergogna. Il Viminale che replica dice: si tratta di pochi euro in più. Così il Giornale, che anche nel titolo insomma dà questa lettura molto critica. Diversa la lettura di Avvenire, che parla, come vi dicevo, di un segnale dal governo e riporta anche alcune posizioni, come quella di Mario Morcone, che forse qualcuno ricorderà, al Ministero dell'Interno, il funzionario che si occupava di immigrazione al Ministero dell'Interno, che adesso è direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati, e dice: la vittoria della ragionevolezza consentirà di tornare a standard di qualità nel circuito di accoglienza. Qual è il rischio dall'altra parte? Il rischio è che entrino operatori privati, dice Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'ARCI, operatori privati senza alcuna competenza. Come nel caso, lo avevamo raccontato nei giorni scorsi, lo ricorderete, della società Ors Italia, che è una società con sede in Svizzera, che aveva preso appunto l'appalto per un centro di prima assistenza per i richiedenti asilo a Trieste, il centro Malala. Questa Ors Italia, questa Ors sulla quale si era addensata qualche preoccupazione per la gestione appunto dei centri per migranti che ha in altri luoghi. Veniamo, un po' di cronache, consentitecelo, dal coronavirus, oltre a tutta questa vicenda che avete sentito anche in GR24 e che trovate sulle prime pagine di tutti i giornali, della Cina che dice abbiamo trovato qualcosa che potrebbe curare il coronavirus, l'OMS che dice che non è per nulla certo, ci sono tutte le storie che arrivano dall'Italia e che ci raccontano un po' quello che sta succedendo in giro, a partire da questa quarantena fai da te che viene ben raccontata da Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, pagina 5. La parola d'ordine nelle comunità cinesi ormai, dice, è autoisolamento. A Torino, Roma, Prato, Firenze, Padova, Napoli, Milano, Reggio Emilia, l'autoquarantena è accettata di buon grado da chi è arrivato dalla Cina, fortemente consigliata dal governo di Pechino per stroncare l'epidemia. I medici cinesi hanno consigliato l'isolamento di 2 settimane perché per i primi 14 giorni il virus appunto non si manifesta. A Prato, dove sono almeno 20.000 cinesi residenti, sono decine quelli tappati in casa. Ormai con autoironia postano sul web parodie di se stessi. C'è chi si mostra mentre finge di giocare a biliardo sul tavolo della cucina con i pomodorini al posto delle palline. Chi a Capodanno cinese appena concluso si fa vedere mascherato mentre improvvisa una danza del dragone casalinga. E chi si mostra nei panni dei protagonisti della soap opera più popolare, svago per molti nei lunghi pomeriggi di autoquarantena. E ancora, c'è chi ne approfitta per allenarsi nelle arti marziali e chi si dedica a mail e lavoro arretrato, altri raccolgono i fondi per i cinesi malati. Prato, appunto, dove ci porta il reportage di Laura Montanari sul quotidiano La Repubblica a pagina 9, è questa Prato senza operai e merci che rischia la paralisi. La porta del capannone è spalancata e dentro non c'è nessuno, soltanto scaffali e scaffali di bottoni, fibbie, nastri, coccardi. Appoggiato a un muretto della sua azienda, 18 accessori, Hu dice soltanto: mercato fermo. Poca gente in giro. Più in là, sotto l'insegna 8 Pronto Moda, un ragazzo cinese tra una distesa di camicie e vestiti estivi parla al telefono con un cliente e spiega che no, non sappiamo se riusciamo a rispettare le consegne, dipende da quello che ci mandano dalla Cina, ci proviamo. E per dare l'idea del clima, qualche giorno fa l'assessore all'istruzione Ilaria Santi è andata nella mensa di una scuola elementare, una bambina cinese le ha chiesto: tu non hai paura di mangiare accanto a me? Una domanda che, appunto, racconta Laura Montanari, rivela il clima. Le questioni politiche. Allora, c'è tutta la questione della prescrizione, ovviamente che crea tensioni all'interno dell'esecutivo, ma non è la sola all'interno della maggioranza, ma non è la sola questione che crea tensioni. Avvenire ci porta su un tema e andiamo sui dossier concreti che hanno a che fare con i nostri soldi, con i quattrini che intaschiamo, dovremmo intascare dallo Stato, e che Avvenire ci porta sul tema dell'assegno unico. Lo ricorderete, se ne è parlato tantissimo nei mesi scorsi. Adesso la cosa che dobbiamo fare è tutti gli incentivi per le famiglie, raccoglierli in un unico assegno. Ebbene, tensione tra PD e Italia dei Valori e tutto fermo anche qua, racconta Marco Iasevoli a pagina 7 di Avvenire. Quando si parla di assegno unico per i figli, dall'ombra spunta ineluttabile la parolina terribile che stronca tanti sogni politici: rinvio. E il rinvio è arrivato inesorabile anche ieri in Commissione Affari Sociali, dove era previsto l'esame degli emendamenti al disegno di legge Lepri Delrio, che accorpa altri progetti simili, che delega il governo a varare il nuovo strumento universale di contrasto alla denatalità, ossia appunto l'assegno unico. Cosa succede? Che è in gestazione un disegno di legge, una legge che si chiamerà Family Act, appunto dedicato alla famiglia, firmato dalla ministra Bonetti, la ministra della famiglia di Italia Viva. Quindi in attesa di questo si rinvia sull'assegno unico, ma forse questo assegno unico non entrerà nel Family Act. In sostanza non si sa come andrà a finire. Sanno benissimo invece come andrà a finire, anzi sanno da adesso come andrà a finire le partite IVA. A pagina 4 il quotidiano La Verità ci racconta che la flat tax sarà tagliata già dal 1 gennaio. Insomma, c'era qualcuno che si era illuso e aveva detto, dato che l'intervento sul regime forfettario per le partite IVA, insomma quella sorta di flat tax per le partite IVA, è stato approvato tardi, ci consentiranno di fare anche il 2020 con quel regime forfettario. No, cari amici, non si può fare, racconta Claudio Antonelli a pagina 4 appunto della Verità, che dice: l'ultima speranza delle partite IVA si è infranta ieri. Il governo, con la manovra approvata prima di Natale, aveva stravolto la vita degli autonomi che, grazie alle novità, avevano goduto per un anno della flat tax al 15%. La legge è entrata in vigore in ritardo e almeno 300.000 persone speravano di godere del regime forfettario per l'intero 2020. Perché? Perché lo statuto del contribuente non prevede l'applicazione retroattiva di novità di questo tipo. Non sarà così. Ieri in commissione in bilancio il governo ha confermato che chi nel 2019 ha sforato il reddito di 30.000 euro da lavoro dipendente o da pensione si trova subito espulso dal bacino della flat tax a partire dal 1 gennaio scorso. Traffico. In cima a una montagna innevata o in attesa della prossima onda, ovunque ti portino le tue passioni, seguile a bordo di BMW X3. Il SUV disponibile in versione benzina, diesel o plug-in hybrid è pronto a farti vivere le tue passioni con un bonus di 5.000 euro se permuti la tua auto. Offerta valida fino al 15 febbraio su vetture disponibili a stock. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Sabato 8 e domenica 9. Oh, avete ragione che già ho avuto una mezza questione con Renzi, non vorrei mai. Non è l'Italia dei Valori, ovviamente è Italia Viva, sono un uomo, sono rimasto nella Seconda Repubblica, e che, se vi ricordate, la sigla dell'Italia dei Valori era IDV, no? E quindi ogni tanto sui titoli dei giornali esce IV e a me scatta mentalmente questa cosa di Italia dei Valori. Ovviamente lo scontro è tra PD e Italia Viva, l'Italia dei Valori non esiste più, oppure forse sì. Chissà, non lo so, perché a volte i partiti rimangono quantomeno come marchio. Va bene, va bene. Caro direttore Fabio Tamburini, ciao, ciao. Ai, errore grave. Allora, direttore. Sto scherzando, naturalmente. Sì, direttore di Radio 24, del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor. Allora, Fabio, partirei dalla vostra apertura, perché ieri, tra le tante cose, nelle scorse ore, si è avviato finalmente il dibattito sulla revisione delle regole del patto di stabilità, che tanto ci interessa, ovviamente. E c'è tutto questo tema degli investimenti green, degli investimenti nel settore verde, scorporati immagino dal deficit. Ebbene, c'è un'apertura da parte di Bruxelles alla possibilità che questo avvenga anche per i paesi a debito alto come noi siamo, ed è l'apertura del Sole 24 Ore oggi. Abbiamo scelto di fare un'apertura un po' diversa da quella degli altri giornali, perché è una questione davvero centrale. Finora l'Europa ha guardato con un occhio molto benevolo al governo attuale, molto diverso da Salvini, che all'Europa faceva paura, però stiamo un po' scherzando col fuoco, e quindi è una questione che va tenuta d'occhio. Il tema è proprio quello che dicevi, e cioè i paesi ad alto debito, e l'Italia ha in Europa il debito più alto di tutti, potranno godere di questa chance che dà l'Europa, cioè di agevolare gli investimenti verdi, gli investimenti nella trasformazione del sistema economico e produttivo, oppure no? La partita è aperta, incrociamo le dita. Prima di passare al resto, fatemi dare un aggiornamento sulla notizia con la quale abbiamo aperto alle 7:20 e sulla quale torneremo tra poco in GR24. È stato trovato un secondo morto sul sito del deragliamento del treno alta velocità avvenuto questa mattina nell'Odigiano. Notizia che vi abbiamo dato questa mattina. Si tratta, come per la prima vittima, di un ferroviere. Si tratterebbe, almeno questo è quello che riferiscono le forze dell'ordine che stanno operando sul posto. Gli aggiornamenti ovviamente li avrete tra un attimo, ulteriori, e il racconto di quello che è successo in GR24. Ti porto, Fabio, invece su quella che è la fotonotizia del Sole 24 Ore di oggi, ed è un fronte interessante che ha a che fare con l'Italia e la concorrenza che subisce nel settore dell'ortofrutta. Una concorrenza che arriva a questo punto anche dal Nord Africa in maniera massiccia. Ai, anche qui la questione è delicata, perché già abbiamo dovuto fare i conti con la Spagna, che ci ha superato proprio per quanto riguarda l'export di ortofrutta, dobbiamo fare i conti con l'Olanda, perfino con l'Olanda, e adesso spuntano i paesi nel Nord Africa. La verità è che noi abbiamo una grande qualità dei prodotti, ma abbiamo dei grandi problemi per quanto riguarda la logistica, l'organizzazione. E qui sarebbe davvero una beffa se questa tendenza che si sta delineando, e cioè la concorrenza dei paesi del Nord Africa, alla fine ci faccia male. Ma ci stiamo davvero vicini. Sì, qua il pezzo di Micaela Cappellini, appunto a pagina 7 del Sole 24 Ore, che dà anche un esempio di quanto l'Italia ha perso, no? Prende il caso della Germania, che è la prima destinazione del nostro export ortofrutticolo, da sola assorbe circa il 30% della frutta e della verdura che vendiamo all'estero. Le nostre esportazioni sono calate dell'8,3%, la Spagna l'ha vista crescere del 26,8%, l'Olanda di oltre il 36%. La questione coronavirus, Fabio, insomma, mi sembra che in queste ore le cose si stiano un po' ammorbidendo, e però qualche tensione, qualche preoccupazione sui mercati e in generale per l'economia permangono. Il problema è davvero grande, basta considerare che la Cina significa il 28% dei grandi lavori, degli investimenti nelle infrastrutture del mondo. Ieri i mercati hanno brindato perché si sta delineando qualche novità positiva sul fronte delle cure contro il virus. Arrivavano queste buone notizie dalla Cina, ma anche dal Regno Unito. I mercati ci hanno subito creduto, infatti sono rimbalzati significativamente, ma io credo che è troppo presto per tirare davvero respiro di sollievo. Ti porterei rapidamente sulla politica, dove allora il nodo ovviamente all'interno della maggioranza resta quello della prescrizione. Oggi noi parliamo sul Sole 24 Ore di uno studio, sui giornali ce ne sono mille, cioè c'è Bonafede che minaccia le dimissioni, Bonafede invece che sarebbe pronto all'accordo. In realtà qua sembra che il lavoro lo stia facendo il Presidente del Consiglio Conte, anche su spinta del Presidente della Repubblica Mattarella, come racconta Lina Palmerini, per cercare un accordo, qualcosa che mette insieme due posizioni che al momento sono estremamente distanti. Io credo che alla fine una mediazione verrà trovata, tutti abbaiano per portare a casa un po' di consensi, ma nessuno ha alcuna intenzione di andare verso lo scioglimento del Parlamento e verso le elezioni. Tutto, ma pur di non andare a casa, e di conseguenza gioco forza, una mediazione sarà trovata. Sarà trovata una mediazione. Tra l'altro oggi pubblichiamo anche sul Sole 24 Ore un sondaggio realizzato da Wimpol, ne parla il professor Roberto Dalimonte proprio nelle pagine di Politica, ed è un sondaggio interessante perché ha a che fare con le preferenze degli italiani in merito alla legge elettorale, un argomento sempre ostico, e però qua la domanda viene messa abbastanza secca. Allora, lei preferisce una legge elettorale dove siano gli elettori a votare direttamente la coalizione col candidato presidente del Consiglio, o una legge elettorale dove gli elettori votino un partito e i partiti dopo indichino il presidente del Consiglio? Ebbene, il 76% degli intervistati in questo sondaggio preferirebbe una legge di primo tipo, quella nella quale si indichi direttamente il presidente del Consiglio. E questo è uno spunto interessante per tutti quelli, Fabio, che stanno lavorando sulla legge elettorale, eh? Beh, direi che è una grande novità, perché alla fine sembrava che il maggioritario stesse perdendo quota, ma da quanto risulta dal sondaggio invece non è così. Gli italiani sono piuttosto, come dire, risultano piuttosto esitanti nel consegnare i loro destini alle trattative tra i partiti e preferiscono patti chiari e amicizia lunga, che preferiscono essere messi nelle condizioni di esprimere un giudizio chiaro sul quale poi andarsi a misurare col voto. Grazie anche per oggi al nostro direttore di Radio 24, Fabio Tamburini. Ci risentiamo ovviamente giovedì prossimo con il nostro appuntamento GR24. Ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. Parleremo degli Stati Uniti e di Donald Trump, e poi parleremo anche di questa vicenda dolorosa, di questo vigile urbano che si è tolto la vita. Poi i suicidi sono sempre qualcosa di molto particolare, nel quale insomma e di molto delicato, insomma, però avrebbe contribuito a questa sua decisione la gogna social alla quale era stato esposto. A tra poco.